momento difficile. Lo so. Però e nemmeno. Musica allo stato puro. Ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire. Fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino. È il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce più lenta sincera. Musica più lenta che mace che spera, veloce più lenta sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Signori e signori. No, signore, signore e signori. Ah, già stia signore, non ce faccio che signore. Signore e signori. Signor. No, ridanghe te. Signore. Vai. Signore e signori, mettete la siede. Ecco a voi Gigi D'Agostino. Bravo. Torna anche domani. Bravo. Thank you. 16 aprile. Domenica 16 aprile. È Pasqua. Pasqua. E che disco a Rimini. Tutti a Rimini, regà. Discoteca Altro Mondo. Discoteca Altro Mondo. Alle 22.30 chi suona? Gigi D'Agostino. Perfetto. Dopo? DJ Provenzano. E dopo ancora? Luca Nois. E dopo ancora? Daniele Mondello. Ci vediamo lì. Metteci una tonda. M2O. Ma allora, ecco, questo qua. Questo brano. Questo. Come si intitola? Dance Music. Allora abbiamo provato 10 volte e adesso mi hanno sbagliato. E dance music. No, è dance music. Ah, dance music. Meno cretino, più dance music. Dance music. E l'artista. Woofer. Woofer. Ecco, quindi il titolo è Dance Music. No, più Dance Music. Dance Music. Ecco, che bravo. Presenta un po' questo brano qua, presentalo tu, presentalo. Allora ti presento una canzoncina, una favola. Tresca Losca, artista, lento violento meno. Tresca Losca. Tresca Losca. C'è la mosca. Fare una canzone da suonare con la chitarra

se giocano. Ecco, è vero. Ecco, è che mica. No, aspetta, dillo tu, vai, il titolo. Il titolo è Angel, l'artista Gigi D'Agostino. E mica ciulino. Bye. Lucky Slow, lento violento man, ha capito? Paravento. Che tavolo questo?

marziano ci porta lontano. Lontano, lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buongiorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è... This is Schia. Schia. This is Schia. This is Schia. This is Schia. This is Schia. Schia. This is Schia. This is Schia. Schia. Schia. Schia. Schia. Sigla, ma sfumare perché devo respirare.